Abbassando, abbassando, abbassando gli occhi, non mi hai detto più la verità. Ci siamo persi senza dirlo, prima del tempo nero che è venuto senza pietà, pieno di sospetti, fragili e netti. Abbassando, abbassando, abbassando le mani sulle orecchie, nella mia anima mi son detta non è vero, è uno sguardo sincero, sincero e puro come il mio pensiero, perso nel parlare serio di passione, passione mal padroneggiabile, mi rende molto mobile sulle sponde azzurre dello spazio amabile. Volo, volo, volo con i piedi nell'acqua, è un caffè nella pancia per mangiare con te. Abbassando, abbassando, abbassando valigie dentro al porto, mi sopporto un po' la mia faccia, stanco viaggio, no, non mi dà coraggio di credere, credere, credere senza domande le parole che tu non mi puoi dire. Abbassando, abbassando, abbassando la testa, mi conforto e non ci penso più, mi son detta lascia stare, è una storia popolare e vale, vale, vale una canzone nel parlare ludico di passione, passione mal padroneggiabile, mi rende molto mobile sulle sponde azzurre dello spazio amabile. Volo, volo, volo con i piedi nell'acqua, è un caffè nella pancia per mangiare con te. Di passione, passione mal padroneggiabile, mi rende molto mobile sulle sponde azzurre dello spazio amabile. Volo, volo, volo con i piedi nell'acqua, è un caffè nella pancia per mangiare con te.